Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. One nil up. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile. Ben ritrovati alla finestra sul cortile da Cristina Battocletti. Televisione, scienza, moda, sport e molto altro ancora dai tetti del mondo in questa nostra puntata. Ma sentiamo subito il sommario. Francia. Troppo poco etnica la fiction televisiva. Non rispecchia la realtà del paese. Giappone. La moda e lo stile dei giovani nipponici spopola tra i teenager inglesi. Pakistan. Nasce Google, il motore di ricerca contro ogni tentazione. America. Il caso è timoniere degli eventi? La scienza distrugge una teoria sempre più diffusa. Inghilterra. Le relazioni tra animali dello stesso sesso sono più proficue per l'evoluzione. Il cinema, il documentario e il mondo dell'animazione sono cresciuti in maniera significativa. Così ha detto Alexandre Michelin, presidente della Commissione dell'Immagine per la Diversità Pubblica, commissione che controlla in Francia che tutte le etnie, le componenti etniche, siano ben rappresentate sul grande schermo e anche in altri settori dello spettacolo. Ma il quotidiano francese Le Monde non è d'accordo per quanto riguarda la fiction, che definisce il brutto anatroccolo della diversità. In più di due anni, da quando è nata appunto la commissione, un'emanazione del Centro Nazionale della Cinematografia e dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Sociale e le Pari Opportunità, di fiction multietniche come la Francia se ne sono viste poche, nonostante i finanziamenti ingenti, 281 progetti di fiction per 9 milioni di euro. La stessa Michelin ha detto la diversità non è stata affatto presa in considerazione nelle fiction. Il progresso, secondo la Presidente, in questo campo non c'è, almeno nei programmi di grande ascolto. La realtà però dimostra il contrario, la realtà televisiva. Si promuovono e hanno grande successo alcune fiction in cui sono presenti attori magrebini, ma anche situazioni familiari magrebine e con persone di colore. Si chiama questa fiction Plus Belle Vie su France 3 e Aisha su France 2, con 5,3 milioni di telespettatori. La televisione americana, secondo la Presidente, rispetterebbe veramente benissimo la diversità e spesso chiedono di intervenire addirittura ad attori francesi di origine magrebina. Ma per raccontarci cosa succede, abbiamo in linea Attilio Geroni, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Ben trovato Attilio Geroni. Grazie. Ecco, questa polemica che peso ha in Francia? In Francia ci sono tantissimi rapporti che a diverso titolo parlano della diversità e delle pari opportunità nel mondo del lavoro e adesso anche siamo nel mondo dello spettacolo, del cinema, in particolare delle fiction. Bisogna dire che il rapporto è molto critico per quanto riguarda la rappresentazione multietnica della diversità nelle fiction, decisamente meno critico sull'aspetto cinematografico e dei documentari. Ricordiamo quest'anno il grande successo di un film come Welcome, che parlava di una realtà, la realtà dell'immigrazione clandestina, era la storia di un istruttore di nuoto che aiuta un ragazzo afghano ad attraversare la Manica. Sappiamo che qui in Francia esiste quello che si chiama delitto di solidarietà, cioè reato di solidarietà: se si aiutano i clandestini si rischia di andare in carcere. Ecco, questo è un film che ha ben rappresentato la diversità e soprattutto una realtà scomoda in Francia, quella dell'immigrazione clandestina, ed ha avuto anche un buon successo di pubblica oltre che di critica. Sul fronte della fiction è vero, ci sono delle carenze, però come hai ricordato tu nell'introduzione iniziale, ci sono fiction come Aisha e come Plus Belle la Vie, con delle audience molto elevate, dove la diversità è protagonista, non è un elemento di semplice di contorno. Quindi la polemica c'è, secondo me il successo è difficile quantificare la diversità, stabilire delle quote. Ma chi è il pubblico di queste fiction, quelle che abbiamo citato entrambi? sono... È un pubblico assolutamente trasversale, non è solo un pubblico etnico, poi è difficile ricostruire nell'audience quali sono, ad esempio, un pubblico molto giovane, questo dicono le ricerche di mercato, ed è un pubblico trasversale, non necessariamente sono i gruppi etnici di appartenenza dei protagonisti a ritrovarsi in queste fiction. Quindi Plus belle est la vie è un successone assolutamente trasversale che taglia tutta la società francese. Ma si parla d'amore, di vita, non lo so se potessimo paragonarlo a una fiction italiana tipo Il medico in famiglia, o si parla di storie di immigrazione, o è una famiglia diciamo eterogenea? La diversità viene contestualizzata, viene giustamente anche normalizzata, fa parte della vita, è gente assolutamente normale che vive come noi e che ha gli stessi problemi, le stesse gioie, gli stessi dolori, quindi diciamo è la normalizzazione della diversità, cioè l'inserimento di una differenza etnica uscita dall'immigrazione che si contestualizza nella società francese, nel modo di vita, nello stile di vita francese. Quindi questa polemica per lei è abbastanza pretestuosa? Sì, eccessiva, ogni volta, ripeto, France Télévision, che è la televisione pubblica francese, ha istituito nel 2004 una commissione per controllare, per fare in modo che la diversità sia in una certa misura rispettata nella produzione televisiva. È anche vero che chi fa molto per la diversità è appunto la televisione pubblica, decisamente, e non a caso le due fiction più popolari, Aisha e Plus belle la vie, della quale abbiamo parlato e che tu stessa hai citato, sono trasmesse su France 2, su France 3, che sono due canali della TV pubblica. Sono un po' in ritardo i grandi canali commerciali, a cominciare dal colosso TF1 e dall'altro canale privato emergente che è M6. Secondo lei, vista la sua esperienza da corrispondente, ci sono altre nazioni in Europa che rappresentano meglio questa diversità? Ma io mi ricordo, perché prima di arrivare in Francia sono stato corrispondente in Germania ed era una fiction che aveva avuto molto successo in Italia, tra l'altro trasmessa anche in Italia con il titolo Kebab for Breakfast, e viene dalla Germania ed è una fiction dedicata proprio alla diversità, parla di una famiglia allargata, i cui genitori, uno tedesco e l'altro turco, si sposano in seconde nozze e creano una famiglia. Ecco, lì c'è lo scontro tra culture, ovviamente nell'ambito di una sitcom, quindi con molta ironia e molta leggerezza. Ecco, però non ho visto finora, almeno nella televisione francese, dal punto di vista della fiction, nulla di paragonabile, dove la diversità e l'integrazione sono il centro del soggetto cinematografico, televisivo, anche se in Germania è stato trattato con leggerezza e ironia e ha avuto molto, molto successo. Tra l'altro va anche sulla televisione francese oltre che su quella italiana. Quindi in questo senso la Francia ha da imparare dalla Germania. Grazie ad Attilio Geroni e a risentirci. Grazie anche a voi. Contro la bellezza e contro il sistema moda. I giovani giapponesi si fanno baluardi della controcultura e gli inglesi li imitano con i capelli color fluo o addirittura con colori neon. Occhi e lineamenti truccati pesantemente, quasi fossero delle maschere, e un colore della pelle che tende al nero. La moda si chiama Manba, in Giappone nota anche con il nome di Ganguro o Gonguro o Yamamba. Yamauba è in giapponese il nome della montagna delle streghe a cui la moda sembra ispirarsi. La moda è iniziata circa 10 anni fa e sta prendendo sempre più piede. Così, con la pelle nera, gli occhi pesantemente truccati, le lenti a contatto blu, i giovani mettono in atto la loro ribellione contro la pallida bellezza occidentale. E la cosa diventa ancora più grottesca in Inghilterra, dove il tipo fisico corrisponde proprio al canone della bellezza occidentale, perché proprio in Inghilterra ha preso piede maggiormente, oltre che in Giappone. La giornalista Nina Nina Robbins ha passato una giornata con le due ragazze inglesi pazze per il Yamauba e ha scoperto i loro trucchi. Per rendersi più scura la pelle, l'una si è rivolta direttamente a un Africa Shop, l'altra si è preparato un impasto con i chicchi di caffè sugli occhi. Oltre a pesanti segni di matita, ci sono anche ciglia finte lunghissime applicate e per ultimo un rossetto molto evidente. Le lezioni per essere una perfetta devota, basta seguire il mini corso su YouTube. Da qui si possono anche imparare le movenze del para-para, la danza tipica dei seguaci in cui si muovono soprattutto le mani. Intanto il gruppo si infoltisce grazie a Facebook. Se lo cercate dovete digitare la parola Mixi, M-I-X-I, e si aggiungono sempre maggiori particolari se li volete conoscere. Il rovescio della medaglia è che la maggior parte delle ragazzine giapponesi sognano e tentano di diventare come quelle britanniche, pallide, bionde e con la pelle bianca. Si chiama Google e la notizia ci arriva da un sito pakistano, il motore di ricerca Kosher, che fa le veci di Google ma rispetta i dettami della religione ebraica ortodossa. Gli adepti tramite Google potranno navigare su internet tranquillamente senza paura di imbattersi in immagini o siti che non rispettino appunto i dettami della religione. Google farà appunto da filtro e seguirà le regole dei rabbini ed inoltre per la parte informatica invece seguito da ebrei ortodossi solamente. La risposta del sito pakistano è l'appello a creare un Google per musulmani osservanti e sprona appunto i lettori a costruire un motore di ricerca halal, che in arabo significa lecito ma in occidente si intende come cibo preparato secondo la legge islamica, o meglio un halal browser con la stessa funzione di Google ma in salsa islamica. La finestra sul cortile. Partiamo da un articolo del Wall Street Journal di Leonard Mlodinow che parla del trionfo del caso. L'autore è un professore del Caltech dell'Università della California. Lo studio, l'articolo del Wall Street Journal parte con un aneddoto. Nell'estate del 1945, subito dopo la fine della guerra, il campione del baseball Joe DiMaggio si era seduto tra la gente nello stadio con il figlio di 4 anni, Joe DiMaggio Junior, per godersi la partita degli Yankees. A un certo punto, riconosciuto il campione, lo stadio esplose quasi in un boato e come in un solo uomo cominciò a cadenzare Joe DiMaggio, e a quel punto il bimbo disse: papà, guarda, tutti mi riconoscono. Questa è la dimostrazione, spiega Mlodinow, che interpretiamo le vicende personali secondo il nostro punto di vista, spesso riguardo eventi che ci toccano personalmente, come nel campo medico, affari e sport. Giungiamo a conclusioni erronee, dice l'autore, proprio come il piccolo Joe DiMaggio Junior. Nel 1941 Joe DiMaggio, invece quello senior, quello importante, poco prima che nascesse il figlio, infilò una dopo l'altra una serie incredibile di vittorie, esattamente 56. Allora il professore si chiede: fu frutto di un talento epico o si tratta soltanto di un colpo di fortuna? Premesso che il talento non si discute, secondo il professore è semplicemente un caso, e dice: se noi dovessimo fare un grafico delle casualità, certo dovremmo tracciare una linea tortuosa, ma ci sono anche periodi in cui il caso è molto ordinato, e sarebbe proprio questo il caso delle 56 vittorie consecutive. Ed è molto più probabile questa serie di vittorie, dice l'autore dell'articolo, di quanto il nostro intuito ci faccia supporre. Per esempio, lanciando 100 volte una moneta c'è una probabilità maggiore del 75% che possa uscire per 6 volte consecutivamente testa. Allo stesso modo è stato calcolato che Bill Miller, uno dei più celebri gestori di fondi di Wall Street, non fosse così eccezionale. Era famoso perché per 15 anni consecutivi aveva guadagnato più della media del mercato, ma un semplice calcolo probabilistico ha dimostrato che se un altro gestore di fondi, qualsiasi, in più di 40 anni consecutivi avessero puntato sulle azioni selezione a caso, c'era almeno il 75% di probabilità che uno di questi ottenesse un risultato addirittura migliore di Miller. Secondo l'autore, tendiamo a cercare una legge nel susseguirsi degli avvenimenti, ma se per caso proprio questa legge non ci fosse, un topo che non cerca alcuna regola o legge immanente otterrebbe risultati migliori dei nostri. Ma per commentare questo articolo abbiamo con noi Matteo Motterlini, professore di logica e filosofia della scienza all'Università San Raffaele di Milano, autore del recente Trappole mentali di Rizzoli. Ben trovato Matteo Motterlini. Ben trovati a voi. Ecco, le conclusioni dell'articolo dimostrano come fosse molto probabile che qualsiasi altro giocatore di baseball nel mondo segnasse un record comparabile o maggiore a quello di Joe DiMaggio. Quindi vince sempre il caso, anche ammettendo il talento. Ma lei concorda con queste conclusioni? Io faccio fatica a commentare perché concordo pienamente. Mi limito a osservare che si tratta di ricerche molto ben note, sono molto divertenti gli aneddoti che usa l'autore del Caltech riguardo a questi episodi, ma sono, come dicevo, delle teorie molto ben note che risalgono a Daniel Kahneman e Amos Tversky, il primo dei quali ha vinto il premio Nobel, proprio per aver studiato la psicologia del giudizio e della decisione umana. Senta, recentemente, proprio in un articolo sul Domenicale, ha spiegato che un cowboy, a un certo punto, per dimostrare proprio la legge della casualità, sparò dei colpi contro il suo fienile e poi segnò con una vernice la serie di colpi per dimostrare che aveva centrato proprio il bersaglio. Ha segnato, insomma, il bersaglio lui stesso. Ecco, sì. Ci racconti un poco. Sono molti i modi in cui la nostra mente si inganna riguardo al caso. E la premessa da fare è che convivere col caso è molto difficile e noi cerchiamo delle regolarità anche dove queste regolarità non ci sono. È ovvio che il talento di Joe DiMaggio gli ha consentito di raggiungere risultati incredibili, ma è ovvio che c'è stato anche lo zampino del caso. Riguardo al cecchino texano, il cowboy texano, è un esempio molto interessante su come noi ci creiamo delle regolarità o addirittura delle spiegazioni causali a nostro uso e consumo. Cosa fa il cecchino texano? Prima raccoglie i dati e poi fa vedere che c'è un'ipotesi che la spiega, cioè una ipotesi che sarebbe confermata dagli stessi dati che lui si è scelto. Allora cosa fa? Invita i suoi amici, spara contro la porta del fienile e dopo ci disegna intorno un bersaglio facendo vedere come lui abbia fatto segno e quindi che è dotato di un'ottima mira. Il punto è che noi nel gestire l'evidenza che si presenta ai nostri occhi giorno per giorno spesso ci comportiamo come lui, cioè di fronte a eventi che sono esclusivamente il frutto del caso non accettiamo il caso ma diamo delle spiegazioni ad hoc, non solo, ma poi cerchiamo la conferma alle nostre spiegazioni alla luce di quegli stessi dati che avevamo usati per far che cosa? Per dedurre la nostra spiegazione. Senta, ma non si arriva al paradosso poi di non spiegarsi proprio niente? Assolutamente sì, sono finte spiegazioni e in molti casi sono anche razionalizzazioni forzate ex post. Qui c'è un'altra trappola, non è soltanto la trappola dell'illusione del raggruppamento che è quella del cecchino texano, c'è anche la trappola della conferma, la trappola per cui a noi piace troppo avere darci ragione, noi non vogliamo essere in disaccordo con noi stessi, allora cosa facciamo? Cerchiamo sempre l'evidenza a favore delle nostre ipotesi, ad esempio la maggior parte di noi legge il quotidiano che è in linea con il proprio credo politico, quindi invece di cercare dell'evidenza nuova che falsificherebbe le nostre ipotesi, andiamo sempre alla ricerca che le conferma e siamo bravissimi a cercare evidenza di questo tipo. Quindi allora dobbiamo lasciare tutto al caso alla fine? Non credo che si debba lasciare al caso, bisogna riconoscere che il caso ha la sua parte, sapere che la nostra mente fa difficoltà ad accettarla, conoscere le trappole nelle quali cadiamo quando trafichiamo con l'incertezza e tenere conto che è molto difficile convivere col caso, allora psicologicamente cerchiamo di vivere, immaginarci un mondo che è meno casuale di com'è di fatto. Grazie a Matteo Motterlini. Grazie a voi. Secondo il Guardian, le relazioni omosessuali tra animali potrebbero giocare un importante ruolo nell'evoluzione. Almeno un terzo delle coppie di albatros, infatti, spiega il Guardian, sono formate da femmine che costruiscono nidi e allevano figli insieme. E quando poi si riproducono lo fanno in maniera molto più efficace, produttiva delle coppie eterosessuali. Questo comportamento è testato sicuramente per gli uccelli, ma con grande probabilità vale anche per le api. Secondo le ricercatrici Nathan Bailey e Marlene Zurk, biologhe dell'Università di California, la relazione omosessuale nel mondo animale sono un fenomeno diffuso. Dai vermi alle rane agli uccelli, il fenomeno, spiegano le due biologhe, si estende oltre agli esempi già conosciuti che riguardano soprattutto scimpanzé, bonobo, delfini, pinguini, pinguini e moscerini della frutta. È provato da tempo che i pinguini abbiano legami omosessuali e soprattutto fra maschi. I rospi di solito non fanno distinzioni di sesso e le lumache marine sono inizialmente sempre di sesso maschile e cambiano sesso se incontrano un altro maschio. Ma non tutte le relazioni devono essere considerate uguali e qui sta la svolta della ricerca. Il moscerino della frutta, per esempio, potrebbe corteggiare altri maschi per ragioni di selezione, perché gli manca un gene che determina il sesso. I delfini maschi ingaggiano rapporti con esemplari dello stesso sesso per compattare il gruppo, mentre le femmine di albatros rimangono insieme perché fanno meglio il nido e si aiutano nell'allevare i piccoli, anche se nella riproduzione chiaramente è necessario il maschio. La relazione omosessuale tra animali è stata considerata da molti studi, ma pochi l'hanno studiata secondo il loro apporto al processo evolutivo. Un apporto positivo per la specie, secondo appunto le due biologhe, per l'evoluzione. Quindi non sono importanti soltanto fattori come meteo, temperature, area geografica, ma anche le circostanze sociali, come può essere una relazione omosessuale. E il tempo a disposizione della Finestra sul Cortile finisce qui. Un ringraziamento in particolare a Daniele Casagrande, Vittoria Mussini in redazione, a Carmelo Lauricella in regia. Buon weekend a Cristina Battocletti.